Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Messaggio gratuito, il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile. Free message, telephone required, don't exist or is busy at the moment. No, no, non posso rispondere, sono una voce registrata. Sì, sì, lo so, sembra vero, me lo dicono tutti, ma sono registrata. Sì, sì, sì, sì, sì. È un effetto speciale, sì, si chiama effetto similpelle. Sì, sì. No, non posso rispondere, sono registrata. Pronto? No, signora, non c'è, non c'è, andata via, in paese lontano, lontano, sì. Ma lei sapeva che tu chiamavi, lei ha detto a me di dire te, di raggiungere lei. Allora io dico te, vai a quel paese. È un problema che probabilmente molti hanno affrontato a casa loro, quando chiama con insistenza al telefono, vedete il numeretto che comincia con tanti zeri e capite che la telefonata del call center, cosa fate? Beh, potete rispondere gentilmente, potete rispondere in maniera meno gentile, potete urlare e dire che in nome della legge non possono disturbare la vostra privacy, potrete starli ad ascoltare, potrete fare un discorso personale con l'operatore del call center, potrete provarci con l'operatrice se siete un marpione, insomma avrete una gamma infinita a vostra disposizione di reazioni. Però c'è una novità, il garante della privacy ha stabilito che da oggi è operativa la norma che appunto da lui compilata, per cui non possono più essere fatte quelle telefonate da parte dei call center, quando andate a rispondere non risponde nessuno e quindi pensate che sia un molestatore. Ho visto scene di panico anche a casa mia, chiama sempre qualcuno e non risponde mai al telefono, chi sarà, quale sarà? No, in realtà è il cervellone del call center che spara 3.000 telefonate al secondo, più di quante possano gestire gli operatori, intanto vi suona al telefono, dopo 3 o 4 telefonate a vuoto qualcuno vi offrirà la mirabolante offerta. Questo non può più accadere, quindi mettetevi il cuore in pace, nessuno stalker a casa vostra, che poi in realtà è un call center. Però rimane aperto il problema che comunque qualcuno vi telefonerà. E voi come vi comportate? E come vi regolate? Io ho qualche tecnica ninja di reazione al telefonatore del call center, perché farsi il fegato cattivo e mandarli a quel paese mi sembra brutto. Qualcosa vi suggerirò e qualcosa aspetto che venga da questa prova mirabile di radio di servizio. Date delle indicazioni ai vostri colleghi ascoltatori come reagire quando cominciano a telefonarvi a casa. Buongiorno signora, a che tipo di abbonamento ha? A che tipo di bolletta luce ha? E come paga il gas? E cosa sta facendo in questo momento? Abbiamo da offrirle una mirabolante offerta. Cominciano a raccontare cose che naturalmente hanno scritte su un foglietto. Potete anche pensare che sia per voi una grande offerta, ma potete anche in quel momento fare qualcos'altro. Nessuno può rompervi le scatole a casa vostra in un momento in cui volete stare tranquilli. Cominciate a chiamare all'800240024. Oggi un incentivo in più per chi chiama, siccome cadrà i 15 anni di Radio 24, sono 15 anni che questa radio emette il suo mirabolante palinsesto, quindi avrete una maglietta omaggio, chiunque telefona avrà una maglietta omaggio, me l'hanno comunicato poco fa, ma sono felice di essere mediatore di questo fantasmagorico omaggio che Radio 24 farà a chi chiama oggi. Grazie, a tra poco. Il parolacciaro è colui, più raramente colei, che approfitta della condizione di anonimo remoto dell'operatore di call center per investirlo, prima ancora che presenti l'offerta, di una raffica indistinta di insulti di natura prevalentemente sessuale o in subordine, riferibili al disordine morale di parenti o affini. Nulla di personale verso l'incolpevole telefonista remoto, ma solo un necessario smaltimento di insulti repressi da giorni e giorni. Questa è una tipologia, quello che si sfoga con le parolacce, comincia una sequela di insulti. A me è capitato di vedere persone distintissime lanciare mucchi di parolacce inutili a fronte di un incolpevole operatore, magari sta in qualche isola lontana, in qualche paese depresso, in qualche luogo lontano, magari poco male conosce l'italiano, però sta lì, fa il suo mestiere, anche pagato probabilmente molto poco, e quindi si prende le parolacce, ma fa parte del grande equivoco del fatto che poi a casa vostra difficilmente potete concepire come qualcuno possa chiamare e disturbarvi. Ma ci sarà stato un momento della vostra vita che inconsapevolmente avrete firmato firmato un foglio in cui autorizzate qualcuno a dare il vostro numero di telefono per comunicazioni commerciali, quindi non ve la potete prendere con nessuno. 800240024, i fortunati che interverranno a questa trasmissione potranno vestirsi di una fulgida maglietta di Radio 24. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, che onore avere anche una maglietta. Dipende. Come sta, dottore? Ma bene, andiamo al punto perché il tempo è poco. Allora io non che taglia è? Media? Prego? XXL? No, la sua taglia. Ma taglia L, no, larga, XL. Quanto c'ha di panza? Che numero c'ha di panza? No, molto ristretta, però mi va bene lo stesso. Una L, vabbè, intanto preparate una L per Giuseppe. Andiamo al punto, Giuseppe. Allora, io non mando mai nessuno a quel paese, anzi... quando mi telefono a me fa piacere perché instauro con questi ragazzi, soprattutto i giovani, una conversazione. Quindi ha bisogno di compagnia, approfitta dell'occasione. Io sto cercando di far capire a loro che non è il loro mestiere quello di mettersi al telefono e di lo so, ma loro farebbero molto più volentieri gli indirizzi il bancario, in qualche attività, ma... gli chiedo che scuola hanno fatto, che aspirazioni hanno, cioè insomma gli frantuma talmente le gonne di questi, prima di chiamare al suo numero ci metteranno. Ottima tecnica ninja. Filomena. Sono io. Che misura porta di maglietta? Io le misure sono tre. Me le dico. Sono la prima, io sono una persona che lavora. No, le misure fisiche per la maglietta che le regaleranno. Per aver un XL. Una XL? Taglia forte, va bene. L o XL, ma sto con... no, perché voglio stare comoda. Allora, Filomena XL, mettetela, ma Intonti sta preparando le magliette, sta facendo i pacchi. Filomena, allora, le sue tecniche ninja per scoraggiare. Le mie tecniche sono gentile, naturalmente, ecco. E poi dico, no, io non capisco la lingua perché sono straniera, questa è la prima. Ah, dice io non capire italiano? No, all'infinito. Scusi, no... parli piano, capisco poco perché lavoro qua. Così sembra una un po' rimbambita, no? Una straniera. Poi faccio la rimbambita. Le viene bene? È abbastanza, sì. Vabbè, Filomena, ottima tecnica ninja. E l'altra è proprio, cara tesoro, quante telefonate avete già fatto? Ho già risposto quasi a tutte e a lei spiace se le dico no? Ecco, quindi altre due tecniche. Sentiamo una delle tecniche che invece suggerisco io. Buon dì. Il garantista. Snocciola articoli e codicilli secondo i quali quella telefonata sarebbe un attacco indebito alla sua sacrosanta privacy. Tenta di intimorire l'impassibile operatore con minacce di denuncia e intimazioni di cancellazione dei suoi preziosi dati personali dal database dell'azienda. Quello solitamente dice di sì, ma poi lo richiama una settimana dopo. Questa naturalmente è la tecnica che più ha sortito effetto. Il garantista prevaleva nei risponditori a call center, quindi il garante della privacy, a seguito dei tanti garantisti, ha garantito i garantisti, proibendo alle società che gestiscono i call center di far sparare telefonate a vuoto dai loro cervelloni, e quindi evitando che molti signori avessero il terrore o l'illusione che qualche ignoto e misterioso ammiratore chiamasse continuamente il loro numero da utenze misteriose. 800240024, oltre che fare una bella telefonata avrete anche una bella maglietta. Giancarlo, buongiorno. Giancarlo? Sì, eccomi, pronto? Le sue misure innanzitutto? 60, 90, 60. No, ma mica deve fare Miss Italia, che maglietta, XXL? No, L per Giancarlo, fa il pacco in Tonti, scusa. Allora Giancarlo, qual è la sua tecnica? Allora, la mia tecnica è quella di portare rispetto a chi mi chiama, perché ho dei carissimi amici che costretti a lavorare nei call center come sellers, laureati, gente in gambissima, con virtù veramente incredibili, che ahimè si piega a... Allora lei, diciamo, nella mia scaletta delle reazioni è il numero 5, l'equo e solidale, le dico cosa avevo scritto io. Non può fare a meno di colpevolizzarsi per le condizioni di disagio sociale della persona che si sta guadagnando il pane in ragione della sua disponibilità a cedere, tenta giustificazione del tipo: ho tanti amici che per bisogno fanno il tuo lavoro, ti sono vicino, ma diventa facile preda di ricatti emotivi su bimbi piccoli e fame. Quindi vede che in fondo lei presta il fianco comunque a un attacco. 800024, grazie Giancarlo. 0024, telefonate, darete utili consigli ai vostri colleghi ascoltatori come accannare il call center vi telefono a casa, allo stesso tempo avere una lussuosissima e adeguata alla vostra taglia, alla vostra prestanza fisica, al vostro fascino, maglietta di Radio 24, che festeggia i suoi 15 anni proprio domani, e quindi siamo tutti contenti. Ubaldo Chiodini, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, la tecnica Ubaldo Chiodini è una tecnica di dissuasione di massa del call center. Ci spiega la tecnica Ubaldo Chiodini? La tecnica Ubaldo Chiodini è molto semplice. Appena un call center vi chiama, voi invece di rispondere male, invece di usare le solite tecniche, ah, sono la donna di servizio, sono questo, sono quello, voi dite... Sì, fanno la voce da Filippina, cose terribili fanno le signore. Sì, cioè, quindi perché ovviamente chi lavora un call center conosce queste la sgama tecniche. Subito. E le luci. Sente la patina del lusso nella parlata della signora, immagina che non può essere la domestica. Allora, cioè, ad esempio, le dicono, buongiorno. Io faccio il call center e lei fa okay. Ubaldo Chiodini. Pronto, buongiorno signore, c'è una grandissima offerta per lei. Buongiorno. Lei è il signor Fabrizio Intonti? No, guardi, io sono Ubaldo Chiodini. Ubaldo Chiodini, chi è Ubaldo Chiodini? Sono io, cioè, guardi, io non conosco nessun Fabrizio. Non può passarmi Fabrizio Intonti? Ho una fantastica offerta per Fabrizio Intonti. Guardi, qui è Ubaldo Chiodini, Fabrizio Intonti non casa non di Ubaldo. Quando posso trovare Fabrizio Intonti? Guardi, io credo che lei abbia sbagliato numero, lei dovrebbe controllare meglio i dati. E quindi alla fine l'operatore a questo punto non sa che dire. Quindi sì. State diffondendo questa sorta di nome di gruppo, Ubaldo Chiodini, perché sì, tutti Ubaldo rispondono Chiodini. Ma sta funzionando questa tecnica? Sta funzionando e tutte le persone che aderiscono al progetto Ubaldo Chiodini, il quale adesso esiste anche un gruppo su Facebook. Una signora come risponde? Fa la voce da uomo? No, la signora, c'è un nome anche per lei, infatti il gruppo si chiama Essere Ubaldo Chiodini o Sofia Maiani. Ah, Sofia Maiani è la donna. Ma cos'è? È la donna. Quindi uno risponde Ubaldo Chiodini e questo disorienta l'operatore. Sì, no, poi uno poi può, cioè questo progetto serve comunque a stimolare le persone, per prima cosa la cordialità e come seconda cosa le persone imparano a improvvisare e soprattutto poi dopo raccontano la loro esperienza sul gruppo di Facebook Essere Ubaldo Chiodini. Ah, c'è già un gruppo su Facebook Essere Ubaldo Chiodini? Sì, è stato creato proprio in questo momento in onore di questa puntata perché la tematica del call center che ti chiama soprattutto a orari tipo le 8 questa le è una radio di servizio, mica scherziamo, è molto sentito, quindi mi raccomando, quando vi chiama il call center dite di essere Ubaldo Chiodini e scrivete la vostra storia, e questo fa parte di questo progetto di storytelling, come si dice adesso. Sì, va molto di moda lo storytelling, sulla bocca di tutti, i politici fanno storytelling, gli Umarell fanno storytelling quando raccontano agli operai del cantiere come devono usare il martello pneumatico, insomma lo storytelling attraversa le nostre vite, ma il punto d'arrivo quale sarebbe? Creare una confusione, una sorta di mail bomb psicologica nella mente degli operatori, che a un certo punto dall'Ucraina tutti diranno chi è Ubaldo Chiodini. Sì, allora questo è un punto d'arrivo che guerra psicologica mettono giù, ma il secondo punto, che è quello più importante, è che la tecnica Ubaldo Chiodini rende piacevole questo genere di telefonate, quindi tutte le persone che aderiscono al progetto Ubaldo Chiodini vogliono essere Ubaldo Chiodini o Sofia Maiani e aspettano invano questa telefonata, che delle volte dopo passano mesi e non la ricevono. Qui a un certo punto nel database dei call center, sono tutti collegati, si vendono i dati l'un l'altro, apparranno milioni di occorrenze a nome Ubaldo Chiodini o Sofia Maiani e si diranno ma chi è questa persona? Esatto, sì, è un nome multiplo, come Luther Blissett negli anni 80. Sì, esatto, è un Luther Blissett. Quindi è un'operazione situazionista, diranno gli osservatori. Sì, diranno così, e l'operazione comunque è iniziata solamente a giugno, quindi sai, giugno, luglio, agosto erano mesi estivi, adesso che si concentreranno di più le telefonate con le offerte di inizio autunno, cioè sarà un trionfo. Quindi Ubaldo Chiodini, Sofia Maiani. Ubaldo Chiodini, Sofia Maiani, diffonderemo quanto possibile quest'altra tecnica ninja di confusione degli operatori di call center. Tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Il possibilista. Non riesce a tagliare subito, ma compie lo sbaglio di ascoltare l'offerta nel dettaglio. È già compromesso. inutile tentare scuse del genere. Devo sentire mio marito, mia moglie, il mio socio. Otterrà solo un successivo appuntamento telefonico, a cui sarà ancora più difficile sottrarsi. 800240024, mirabile trasmissione di servizio, stiamo dandovi consigli come staccarvi in maniera drastica e irreversibile dagli operatori di call center che vi chiamano a casa per offrirvi cose che voi non avete richiesto. Coloro che interverranno in questa trasmissione in eccezionale occasione del 15° compleanno di Radio 24 avranno una fantastica, mirabile maglietta cucita a mano e tessuto con tessuti naturali, ecologici e vegani, quindi sarete gratificati al massimo. Mi raccomando, chiamate. Intanto c'è un importantissimo contributo che ci dà una persona che è passato dalle linee nemiche alle nostre linee per darci dei consigli. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, Gianluca. Lei è un operatore di call center? Assolutamente sì. Avrà la sua maglietta? Certo. Come la vuole? Come le piacerebbe? M di Milano. Una M la vuole? Sì. Vabbè. Ma lo vuole con lo scollo a V o con lo scollo girocollo? Ma guardi, come c'è? Come manica lunga o manica corta? No, manica corta perché a Napoli fa caldo. Puro cotone, ci vuole anche un po' di acrilico? Assolutamente cotone. Puro cotone. No, Intonti sta prendendo appunti, la personalizziamo la maglietta. Allora Vincenzo, certo. Andiamo al punto. Sì. Pronto? Sì, il punto. Ci dia i consigli segreti. Sì, allora, il consiglio è questo. Allora, vi chiama un operatore call center a casa, un povero Cristo che sta lavorando ovviamente, vi dice salve, buongiorno, siamo da Telecom Italia. Sì, una caso adesso potrebbe essere anche qualche cosa anche. Sì, vabbè, dopo li facciamo un po' tutti, così non facciamo prendere colla da nessuno. E dall'altra parte ci risponde: ah sì, salve, buongiorno, mi dispiace, ma ha sbagliato numero, lei ha contattato un centro Wind Infostrada. Dall'altra parte l'operatore fa: ah, mi scusi, ci fa una risata e attacca. E quindi c'è un teschetto da mettere sul nostro telefono che non ci chiamino più? Esiste una maniera? Viene completamente eliminato dalla per sempre lista. Per sempre. Quindi bisogna fornire un'attività commerciale concorrente, un competitor di quello che vi chiama. Esatto, perché da lì questa è una risposta spiazzante. Mentre se si risponde: ah no, guardi, sono una donna delle pulizie, ah no, guardi, ormai non ci crede più nessuna donna delle pulizie. Quel contatto verrà riproposto altre mille volte. Senta, ma accanto ai contatti c'è una specie di indicazione, persona che compra, persona su cui bisogna insistere, cioè vengono classificati in base alla disponibilità? Certo, però questo diciamo viene fatta quando l'utente è diviso fra residenziale oppure business. Per il cliente business c'è questa possibilità di fare una scrematura, un piccolo commerciante, grande, artigiano, un'industria. Ma le faccio un esempio: mia moglie che tentenna non ha il coraggio dello sfanculamento immediato, viene considerata una persona su cui insistere perché chiamano continuamente a casa mia. Certo, però continueranno sempre a chiamare. E quindi deve dire: guarda, questo è un centro, è un call center Wind, si chiama quelli della Telecom ad esempio, e loro non chiamano più. No, no, proprio un negozio. Un negozio? Dire, esatto, sì. Ah, direi e un non negozio. Non chiameranno mai più. Ah, lei è molto gentile, merita molto di più della maglietta, la daremo con la speciale, con la cerniera lampo anteriore e double face, estate inverno. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Allora, per me parto io con la maglietta. Sì, intanto le misure deve darmi e le sue allora, scelte estetiche. L. Con la V, manica lunga, puro sì. Cotone. Va bene, ci sono anche quelle personalizzate da un noto stilista. Addirittura. Sì, se vuole. Cioè, è una partita limitatissima, però qualcuna ne abbiamo a disposizione. Vabbè, mi metto in lista da le iniziali, va. Ce le vuole? Ma certo. Allora come sono? R? S. RS, RS, Fabrizio, prendi appunto. Allora, andiamo al punto. Vabbè. Allora, due tecniche ninja. La prima, se la telefonata arriva dall'estero, tu prendi su, finché loro rispondono ci sono quei 3 secondi, 4 secondi di pausa, è una telefonata del call center, mettere giù direttamente, gli stronchi proprio sul nascere. Due, niente, la tecnica del custode che sta lì per caso, che è della Bulgaria, della lei sa fare la voce del bulgaro? Beh, quello no. Faccia un esempio. Qualche parola in russo. Metta caso, posso... io sono l'operatore, buongiorno signore, abbiamo per lei una fantastica offerta, come risponde? Zdravstvuyte. Ah, bellissimo, così di fronte a questo, a meno che non chiami dalla Russia o da zona limitrofa. Là sono sfigato, cioè, là divento sfigato. Diventa io. Sfigato, allora cambia, parla arabo o qualcosa che tanto non capisco. Va bene, Raffaele, grazie infinite. Antonio. Salve, buongiorno dottor Nicoletti. Le basilari informazioni per la maglietta? Taglia Excel. Ci sono, guardi, c'è adesso, mi dicono, una partita da sera con i rev da smoking per metterla la sera se uno non c'ha uno straccetto migliore. No, grazie, dicevo, non amo particolarmente. Normale, cotone, normale girocollo in puro cotone. Benissimo, la ringrazio. Prego, prego. Allora, approfitto anche per, se mi permette un attimo, per fare i miei complimenti, perché adoro la sua trasmissione e adoro la varietà degli argomenti che tratta. Va bene, lei è un adoratore di Melo, mi fa piacere. Andiamo al punto, la sua tecnica. La mia tecnica, quando è possibile cerco di prendere un po' per i fondelli, diciamo così, l'operatore. Per farle un esempio, l'esempio più eclatante che mi è capitato è stato una volta che ho ricevuto una telefonata di una signora che mi proponeva del cibo per cani, perché non so come abbiano saputo, possiedo dei cani. E cosa gli ha detto lei? Che in realtà se li mangia? Questa signora mi diceva, il suo cane è così e cos'ha. A un certo punto, quando mi disse, sono scommetto che il suo cane è molto intelligente, io le risposi con una semplice frase, ma mica tanto, perché le ultime 4 partite a scacchi che ho fatto con lui le ha perse tutte. Benissimo, lei è un battutista, grazie. Diamo la maglietta anche a Matteo. Matteo, velocemente, la sua taglia. Ciao, ciao. Taglia. Io sono un XL anch'io.